Pillola di luce del 5 agosto 2009. Dagli scritti dello starez Silvano del Monte Athos. Chi rinuncia alla volontà propria per seguire quella di Dio e degli altri avrà sempre la pace nel cuore. Se qualcosa ti rattrista, pensa: il Signore conosce il mio cuore. Se questa è la sua volontà, tutto concorrerà al bene mio e degli altri. Così dimorerai sempre nella pace. Se vuoi avere la pace del cuore, prendi l'abitudine di amare chi ti fa del male e di pregare subito per lui. Vuoi la pace del cuore? Chiedi con tutte le forze al Signore: concedimi di amare tutti gli uomini.